precipiti, la sorte già spietata, già spietata a questo cuore, a questo cuore. Nel profondo cieco mondo si precipiti la sorte, si precipiti la sorte, già spietata a questo cuore. Già spietata si precipiti la sorte, già spietata a questo cuore. Vincerà l'amor più forte, l'amor più forte, con la età del calor. Vincerà l'amor più forte, con la vita del valor, con la vita del valor. Nel profondo cieco mondo si precipiti la sorte, già spietata a questo cor. Nel profondo cieco mondo si precipiti la sorte, si precipiti la sorte, già spietata a questo cor. Già spietata si precipiti la sorte, già spietata a questo cor.